Una tartaruga senza corazza è ancora una tartaruga. Un rinoceronte senza corno è ancora un rinoceronte. Un'aquila senza ali è ancora un'aquila. Questo non è uno spot contro l'estinzione degli animali, ma uno spot a favore dell'estinzione di una malattia, la lepre. Un uomo senza mani è ancora un uomo. Alle persone colpite dalla lepra manca solo una cosa, il tuo aiuto. Giornata mondiale dei malati di lepra. Dacci una mano, sostieni l'AIFO. 800 55 0303 www.aifo.it.